lo zaino in questo strano viaggio verso non so cosa. Ho portato pochissimi oggetti con me: la foto dell'Inghilterra, il cappello di Michael Jackson, una boccetta di vetro e un piccolo cilindro altro più o meno la metà del palmo della mia mano. Qui c'è un'essenza delicata con note agrodolci di arance e di cannella. Sì, è proprio lui, il profumo che tu amavi tanto e che spesso spruzzavi in casa per regalare all'ambiente quel tocco unico che tanto ti rappresentava. Quell'essenza era come te, giocosa e positiva, forte, tenace, calda e fresca. Solo tu sapevi essere tutte queste cose contemporaneamente. Ma come facevi? Ecco quella boccetta, l'ho portata con me. Volevo che ci fosse anche lei. Sai quante volte mi hanno chiesto: ma come fai a vivere in quella casa? La verità è che non potrei vivere lontano da lei. Ecco perché ne ho portato un pezzo con me. Come possono gli altri capire? Ci riesco a malapena anch'io. Eppure la nostra casa, quella dove vivevamo tu ed io, è l'unico posto dove riesco a stare in pace. Sempre che questa parola abbia un senso. Se penso agli ultimi anni, no, non mi sento male. Quando ci rientro non provo ansia, non mi sento sopraffare dall'angoscia. È l'unico posto, al contrario, dove io mi sento al sicuro. Sì, lo so, è lo stesso posto dove tu hai sofferto, dove ti ho visto essere vittima di atrocità. Non me lo dimentico, ma voglio immaginare che quelle siano state solo parentesi orribili e terribili che mai e poi mai offuscheranno quello che era un nido d'amore e di pace. Casa nostra è ancora quell'arcobaleno di luce e colori che ha illuminato i nostri giorni insieme. Non lascerò che ciò che si è intromesso fra noi devasti quando di più solido e duraturo è rimasto. Quella è la nostra casa, mia, tua e di nessun altro. Ho provato a buttare fuori tutto ciò che non le apparteneva, perché il ricordo di noi nei nostri momenti più belli è un tesoro che va difeso e protetto ogni giorno. Quella casa siamo noi e tu sei ancora lì. Ecco perché ogni volta che ci entro mi sembra di entrare in un'altra dimensione. Chiudo la porta e lascio il mondo e le brutture fuori tra il chiasso, il disordine. Dentro, al contrario, c'è pace. Mi sembra di vederti e di sentirti. È questo profumo che ho portato qui, su questa barca, mi fa sentire a casa, insieme a te. Allora ho deciso di vaporizzare un po' di questa essenza all'interno della barca. Certo, non è facile. C'è l'odore del sale fortissimo che sembra annullare tutto il resto, l'odore di pioggia, le raffiche di vento che sembrano sciabole e l'umidità che sta lì a ricordarti che l'acqua sa essere anche tanto deleteria, come se non lo sapessi già. Eppure, quando sento quell'odore pervadere la mia cabina, mi vedo camminare e superare il varco del cancello ed ecco che tutto scompare. Vengo avvolto da un'aura che annulla la mia giornata. Il mare in tempesta, il caos delle onde, il freddo che mi penetra, le ossa, il nulla che mi circonda, entro in un mondo etereo, sento la tua voce. Mamma, ma dove sei? Non nasconderti, fatti vedere, lo so che sei qui. Mi sembra di sentirti, mi sembra di sentire la mia voce, tanto i miei pensieri sono vividi e potenti, quasi come se parlassi, quasi come se riuscissi a percepire, ma forse tu ci sei, solo che non posso vederti con i miei occhi, ma forse tu sei solo che non posso vederti. E allora non mi resta che sentirti con tutto ciò che mi è sensi, con tutto ciò che i miei sensi riescono ad intercettare, chiamatele vibrazioni, chiamatele sensazioni, ma io la sento. Lei è qui, tu sei qui, il mare si ferma, il vento cesse di soffiare, ma dove sono? La cosa più bella è che non ho paura. Mamma, parlami, dimmi come stai, dimmi che mi vedi e che sì, è stata una follia iniziare questo viaggio verso l'ignoto, ma che se l'ho fatto c'è una ragione. Quello che capisco è invece la sensazione che sento, la magia, il sogno, vivere una dimensione altra, diversa, dove tutto si ferma e ci siamo solo noi due. Un'emozione costante, forte e delicata che vorrei poter fermare e fissare nel tempo tiranno che vive e di mistero, un po' come la vita in questi 4 anni da quando te ne sei andata. Ma poi perché continuo a dire che te ne sei andata, quando invece ti sento vicino e presente? Prova a chiudere gli occhi adesso che di anni ne ho 21 e non sono più un bambino, e sentire che ci sei, ascoltare quei battiti, immaginarli, viverli. Guardo quella preziosa ampolla che è tutto ciò che di fisico e reale mi resta di te. Volevi essere cremata, questo mi hai detto sempre in quella strana giornata in cui siamo andati al cinema, la scena del funerale. Tu che mi dici che la vorresti come una festa e che mi parli del tuo desiderio di essere cremata. L'ultimo regalo che potevo farti, che mai avrei voluto donarti, quell'ampolla è sempre con me, sul mio comodino, al riparo da tutto e tutti. A volte la tocco e immagino di poterti abbracciare e spero di vederti ancora. Come vorrei vederti, mamma, ogni giorno, ogni notte, e non solo le 3 volte che mi sei comparsa in sogno. Avevi lo stesso sorriso della foto durante il viaggio in Inghilterra e profumavi di quelle gocce di arancia e cannella che in questo momento invadono la mia piccola stanza. Ferma tra le onde, il cielo è sempre lui, l'orizzonte.